America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Musica hawaiana, beh, è musica hawaiana perché? Perché la vacanza è finita. Barack Obama rientra dalle Hawaii dopo 16 giorni di meritata vacanza e si troverà a partire da domani a Washington un congresso a maggioranza repubblicana. Lo sapevamo, ne abbiamo parlato, ma da questa settimana, da questo 2015 ormai di lavoro, parte una nuova fase politica in America con conseguenze ancora sconosciute sia sul piano interno che su quello internazionale. You know, the president is threatening to take unilateral action on immigration. John Boehner, presidente della Camera, ha confermato, ha già detto di essere pronto al dialogo, al suo dialogo però, e cioè passare quanto prima leggi ispirate alla filosofia repubblicana per poi mandarle al presidente che, secondo lui, dovrebbe semplicemente firmarle. Fra queste sue iniziative potrebbe esserci un tentativo di modificare la riforma sanitaria di Obama, che però dopo un avvio zoppicante sta cominciando a funzionare e su cui Obama non intende cedere. Questo l'ha già detto. Sentiamo invece il nuovo capo della maggioranza al Senato, Mitch McConnell. Just because we have a two-party system doesn't mean we have to be in perpetual conflict. McConnell è la novità, devo dire, è un repubblicano doc, ma è anche un repubblicano illuminato, un repubblicano di destra ma pronto a navigare verso il centro. Il Senato è stato sempre più pragmatico rispetto alla Camera. Qual è lo schieramento della maggioranza? 54 voti al Senato contro 46 e 246 voti alla Camera contro 188 dei democratici. Ecco, domani con l'insediamento, come vi dicevo, i numeri da teorici diventano reali, il giro di boa, la necessità di dialogare fra un presidente che proviene dalla sinistra del Partito Democratico e una leadership congressuale che proviene dalla destra del Partito Repubblicano diventa un must, diventa un dovere. Ma chi farà il primo passo? Barack Obama, i repubblicani? C'è da dire che dopo la sconfitta del 4 novembre Barack Obama, a me è sembrato che si sia abbastanza scatenato, è apparso più sicuro di sé, ha firmato un paio di decreti esecutivi, il primo sull'immigrazione, il secondo per normalizzare le relazioni con Cuba, ha alzato la voce contro la Sony che aveva ritirato il famoso film Interview dalle sale sotto minaccia degli hackers ispirati dalla Corea del Nord, e proprio qualche giorno fa, nel fine settimana, ha deciso nuove sanzioni contro la Corea del Nord. Ha anche firmato nuove sanzioni contro la Russia che erano state proposte dal vecchio congresso, e sempre col vecchio congresso, ve lo ricordo, ha raggiunto un accordo importante per garantire un anno di stanziamenti di spesa che eviteranno la chiusura del governo americano. Il risultato qual è? È che c'è stato già un apparente movimento verso il centro delle due leadership, quella legislativa e quella esecutiva. E devo dire, per la prima volta, subito prima delle vacanze, abbiamo visto un dialogo che ha relegato all'isolamento gli estremi, sia gli estremi di sinistra con Nancy Pelosi e compagni, che quelli di destra con Marco Rubio, Ted Cruz, eccetera, eccetera. E Obama come si prepara a tutto questo? I can always do better in every aspect of my job, and congressional relations isn't exempt from that. I think the circumstances will have changed, though. Barack Obama in un'intervista con la National Public Radio, suoi commenti su governo, repubblicani, e devo dire che con due anni di governo davanti a sé e con meno responsabilità, a Washington si sta dicendo che il presidente si sente già un uomo molto più libero, molto più rilassato, proprio come è apparso, come ha detto in qualche modo in questa intervista. Barack Obama dice: oggi posso guardare indietro al 2014 e posso dire che siamo posizionati bene come non lo siamo mai stati in molti anni. L'economia funziona, c'è più che mai bisogno di leadership americana nel mondo, c'è un senso liberatorio nel fatto che il nostro lavoro ha portato i frutti che aspettavamo. E allora, superate le sfide più difficili, posso dedicarmi ad altre sfide che non ho ancora potuto affrontare davvero, come l'immigrazione, la normalizzazione delle relazioni con Cuba. È come se ci fosse un passaggio da cose che dovevo fare a cose che volevo e che voglio fare. Ecco, in questo senso mi sento più libero. Дорогие друзья, через несколько минут наступит новый 2015 год. Как всегда, мы с волнением ждем этот праздник. Загадываем желания, дарим друг другу подарки. Ecco, vorrei sottolineare che in qualche modo Obama sembra essere anche più spavaldo con Putin, perché il bulletto di Mosca, come lo chiamano la Casa Bianca, che sembrava vincere la gara d'immagine con il suo decisionismo, le sue annessioni nei confronti di Obama, che appariva invece indeciso, oggi è in difficoltà. Obama sembrava perdere colpi quando reagiva con sanzioni invece che con azioni più decise. I repubblicani lo prendevano in giro, dicevano che era debole, che si faceva mettere i piedi in testa da Putin. E invece alla lunga ha proprio avuto ragione lui. La Russia soffre per le sanzioni, soffre per la caduta dei prezzi del greggio, Putin è chiaramente in difficoltà e Obama sembra improvvisamente un leader lungimirante e sapiente. I think there are some hardliners inside of Iran that are threatened by a resolution of this because they're so invested politically. Barack Obama, di nuovo, sempre l'intervista National Public Radio, in questo caso parla di Iran e dice: ma chissà, forse potremmo anche aprire un'ambasciata a Teheran. Ecco, questo è un fatto nuovo. Cambia le carte in tavola, si scontra in questo caso Barack Obama con i repubblicani, perché Lindsey Graham, per esempio, che sarà il capo della Commissione Esteri del Senato, ha detto che invece lui vuole mettere delle sanzioni contro l'Iran, perché fidarsi è bene, ma prima dobbiamo fare delle verifiche, e sulla rinuncia agli armamenti nucleari per ora Teheran non ha dato le garanzie che doveva dare. Dunque, dovendo dare un po' una bussola per la navigazione di questo 2015-2016, questi due anni che restano al presidente Barack Obama, ci saranno due momenti. Secondo me il 2015 sarà un anno interlocutorio in cui, se vogliono davvero, potranno trovare dei compromessi, dico repubblicani e democratici, e raggiungere qualcosa sul piano della politica interna, per esempio sull'immigrazione, ecco, tanto per citare una tematica che entrambi condividono. Ma arrivati al 2016, a quel punto i giochi saranno fatti dal punto di vista interno. Barack Obama continuerà a cercare degli accordi, dei passi in avanti per lasciare un'eredità importante dal punto di vista della sua leadership internazionale, cosa che finora gli è mancata. E proprio questa sua affermazione sull'Iran, secondo me, definisce un po' un quadro strategico interessante, perché cosa c'è dietro questa scelta iraniana? C'è un abbandono dell'Arabia Saudita. Pensiamoci bene, gli attacchi alle Torri Gemelle sono stati fatti da fondamentalisti islamici di estrazione sunnita. Osama Bin Laden era dell'Arabia Saudita. Gli attacchi che vediamo dell'ISIS sono ispirati o quantomeno finanziati anche da denaro saudita, da denaro del Qatar, comunque da sunniti. Ecco, l'Islam sunnita si rivela in qualche modo più pericoloso, più violento, l'Islam estremista naturalmente, di quello estremista di estrazione sciita. Dunque non c'è soltanto un'apertura casuale, ma potrebbe esserci un cambiamento di strategia. Le dicotomie, le differenze ci saranno inevitabili. C'è il fast track per i negoziati commerciali, c'è il problema dell'educazione, della riforma dei prestiti universitari, insomma c'è un atto pienissimo, e dobbiamo pensare che alla fine forse dovrà essere più l'Obama liberato a lavorare coi repubblicani piuttosto che il viceversa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su meria24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Restiamo in tema hawaiano con un classico straordinario, un classico americano, Somewhere Over the Rainbow, interpretata da Israel Kamakawiwo Ole, grandissimo artista, grandissima canzone di Dreams That Come True, di sogni che si trasformano in realtà. Well, trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. Dream that you dare to. Why, oh why can't I? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.